Mix 24 di Giovanni Minoli. Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la fame e sono in cammino verso una speranza di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede un gesto concreto. Ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni monastero, ogni santuario d'Europa ospiti una famiglia, incominciando dalla mia diocesi di Roma. È il 6 settembre, Papa Bergoglio da San Pietro torna sul tema dell'accoglienza. Il primo viaggio pastorale del Papa era stato a Lampedusa nel luglio del 2013, senza autorità, senza cerimoniale, solo una corona di fiori e una messa per i morti di speranza nel Mediterraneo. Nell'Angelus del 6 settembre la preghiera chiama l'azione. Ospitare chi fugge dalla morte. E siamo in ballo tutti. Canoniche e parrocchie, le prime case. E proprio nelle parrocchie di Roma, per noi, Giovanna Corsetti è andata a cercare le risposte all'appello del Papa. Una proposta ottima che doveva arrivare il prima possibile e speriamo che veramente venga messa in atto. Certamente è una richiesta forte, non tutti abbiamo le risorse per farlo. È un problema di coscienza individuale, io penso. Sono tanti e quindi non è tanto la volontà di non voler accogliere, però queste persone, se vengono accolte, bisogna anche occuparle. Penso che sia una terza guerra mondiale. Secondo lei esiste questo dovere dell'accoglienza? Vanno accolti? No. Perché? Perché penso che ci abbiamo abbastanza problemi qua in Italia per aumentarne ancora di più. Non crede che accoglierli o non accoglierli i nostri problemi non cambino? No. Penso che aumentino i nostri problemi con un'accoglienza disorganizzata. No, per motivi di sicurezza, perché in mezzo a tutta questa gente non tutti sono profughi e quindi non posso accogliere una persona estranea a casa mia. Perché non vuole? Di cosa ha paura? È il timore di avere una persona in casa, cioè non è possibile. Ma io credo che vedere il nemico fuori di sé sia sempre ingiustificato. Non credo che uno cambia religione o ci siano attacchi alla nostra religione perché c'è qualcosa di diverso intorno a noi, semplicemente perché evidentemente è debole la fede. Se saputa gestire, questa potrebbe essere una risorsa in un paese come il nostro con un calo demografico assurdo. È d'accordo con Papa Bergoglio, bisogna dare accoglienza? Assolutamente sì. Ma solo ai cristiani o a tutti? A tutti, in questo caso a tutti. Sono persone che scappano da una guerra. Possiamo fare qualche domanda? No, nessuno vuole, nessuno ha piacere. Non rispondono e sono in molti a non voler parlare. Noi siamo ripiegati e chiusi noi stessi e crediamo tante isole e inaccessibili e inospitali. La coppia chiusa, la famiglia chiusa, il gruppo chiuso, la parrocchia chiusa, la patria chiusa. E quello non è di Dio, quello è nostro, è il nostro peccato. Assolutamente non è il nostro peccato. Io già mi faccio carico delle persone che conosco e che soffrono e quindi per me sono loro più importanti dei profughi. E abbiamo talmente tanti problemi personali. Se lei prende una famiglia, ovunque c'è un disoccupato, un figlio che non lavora, un ammalato, quindi è pesante. Scusi, allora il Vaticano ha un sacco di soldi, il Vaticano ha delle ricchezze enormi. Quindi potrebbero pensarci un po' loro anche. Però loro lo stanno facendo, a Sant'Anna è arrivata una famiglia. Una famiglia? Si comincia con una famiglia. Adesso è arrivata una famiglia. Si chiama propaganda. Questa famiglia siriana è stata comunque accolta e aspettavamo con ansia che la Chiesa, oltre a un messaggio importante, agisse. Padre, madre e due figli di una famiglia siriana da alcune settimane abitano nella parrocchia di Sant'Anna nella città del Vaticano. Ma cambiamo città e parrocchia, andiamo nel Veneto, perché da Ballarò, su Rai 3, arriva una storia, la storia di Castel Gomberto, e della sua canonica. Don Fabio, ci racconta com'è andata? Dovevate accogliere dei profughi? I profughi, dovevamo accogliere dei profughi in una ex canonica qui adiacente. Sì, che è una canonica qui, che sì, è tra l'altro sì, vicino ad una scuola, quello che è disabitata. Quello che è successo però è che la popolazione vi ha risposto in gran massa no, è così? Molto forte, sì. Se lo aspettava lei? È stata una sorpresa, dobbiamo dire, soprattutto nei modi e nei toni, hanno fischiato e non hanno lasciato parlare. E hanno inneggiato anche il Duce, vero? È stato sì, anche questo. Hanno fatto anche una battuta, viva il Duce, quando c'era lui. Ecco, però tra queste persone che sono invece della Valle, che fanno parte del fronte del no, cosiddetto, c'è cioè Loris. Per quale motivo di fronte a una proposta di questo genere avete detto no? Noi abbiamo detto no perché non riteniamo giusto il sistema dello Stato che piazza queste persone, questi profughi, dentro una canonica. Non sappiamo che persone siano, come vivono nel loro paese, se sono persone con già dei precedenti oppure no, chi risarcisce se combinano dei danni sia fisici che materiali. Però queste sono persone che scappano da una guerra, sono rifugiati, non c'era la carità cristiana? Siamo sicuri che sono tutti quanti che scappano da una guerra? Ci poniamo delle domande che vogliamo delle risposte. Chi le controlla queste persone? Però hai visto che abbiamo messo il discorso della canonica, ci sono anche gente italiana che sono anni che aspettano un tetto, terremotati. Come mai questa canonica non è mai stata presa in considerazione prima, ma adesso tutto di un tratto si apre alle porte degli immigrati? Dunque, la canonica è stata costruita per i preti e non si dà ai musulmani? Succede solo a Vicenza? Il resto del paese cosa pensa? Aldo Cazzullo, per il Corriere della Sera, ha fatto un viaggio nell'Italia del Nord alla scoperta dell'accoglienza. Sono stato a Badia Prataglia, in Toscana, ai confini con la Romagna, un paese che ha eletto un sindaco PD con l'83%, che però non vuole i migranti. In mezzo al paese c'è la Badia, che dà il nome. Da una parte c'è l'albergo chiuso, che è disposto ad ospitare i migranti, dall'altra parte c'è l'albergo con i turisti, e l'albergatore è disperato, dice se arriveranno i migranti andranno via i turisti, e il paese è schierato con lui. Poi sono stato a Padova. E lì com'è andata? C'è questo giardino in centro, da una parte c'è la caserma con 400 migranti, dall'altra parte c'è un asilo con 200 bambini e in mezzo c'è questo parco conteso, perché i migranti non hanno nulla da fare tutto il giorno e vanno sull'altalena, ma le mamme non vogliono che i bambini vadano sull'altalena accanto agli africani, quindi il sindaco ha imposto il divieto: puoi entrare nel parco solo se sei un minore di 12 anni, quindi di fatto i migranti non possono più entrare. Quindi anche da Padova nessuna buona notizia. Poi? E poi sono stato in questo paesino del Ferrarese, Bondeno, un paese sulla sponda emiliana del Po, dove sono tornati Don Camillo e Peppone. Solo che Peppone stavolta è di destra, è il sindaco leghista, pur essendo un paese rosso, che non vuole i migranti, mentre Don Camillo è di sinistra. Naturalmente so che di usare categorie del passato, ma è un parroco che nella sua canonica accoglie afghani, pakistani e combatte in modo molto aspro con il sindaco, anche se in fondo non si vogliono poi così male, come in fondo non si volevano male Don Camillo e Peppone. Questa paura è vera o non li vogliono e basta? Beh, la paura c'è e io credo che la paura sia un sentimento che vada rispettato. Certo, non va alimentato o strumentalizzato come palesemente sta facendo la Lega. Però nello stesso tempo non va negato. Certo, il coraggio è meglio della paura, però non penso che si possa colpevolizzare chi ha paura. Questo la sinistra e forse anche una parte del mondo cattolico non l'ha capito. Il 16 settembre il Consiglio regionale della Lombardia di Roberto Maroni ha approvato un emendamento che parla chiaro sull'accoglienza. Fabio Rolfi, vice capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale e promotore dell'emendamento, racconta a Giovanna Corsetti cosa è stato votato e approvato. Pronto? Pronto, buongiorno dottor Rolfi. Buongiorno. Recentemente è stato approvato un emendamento di cui lei era l'ideatore e promotore. Può spiegarcene i contenuti? Finanziamenti, contributi che la Regione dà per sostenere, promuovere e incentivare il turismo saranno riservati in futuro unicamente a quelle strutture che fanno veramente attività turistica. Abbiamo voluto quindi prevedere l'esclusione quelle strutture che dovessero decidere di utilizzare appunto le loro camere non per i turisti ma per ospitare ad esempio immigrati, profughi o aspiranti tali, scegliendo un altro tipo di business che non è quello turistico. Il concetto è molto semplice: i soldi del turismo lombardo vanno a chi fa turismo. Questo non rischia di penalizzare proprio tutto il comparto alberghiero? Ma io credo di no, perché gli albergatori decidono spontaneamente. scelgono quindi liberamente. Però in questo modo diventa quasi obbligatorio non accettare, altrimenti si perdono. Se vuoi essere inserito in un circuito del sistema turistico regionale, beneficiandole anche i soldi, devi decidere cosa fare. I nostri soldi saranno finalizzati ad aiutare chi si impegna a promuovere l'immagine turistica di un territorio e non a riqualificarlo. Un paesino della Calabria, Briatico, con l'accoglienza di 300 migranti e i fondi, ha consentito a questo paese di rimettere in moto l'economia. Lei non crede che questo avrebbe potuto essere utile anche per qualche paesino della Lombardia? Ma lei crede che questa sia un'economia virtuosa? Mi sembrano le scelte economiche della Prima Repubblica nel Meridione, dove si creava economia, prosperità e futuro unicamente con l'assistenzialismo, cioè regalando le pensioni a intere comunità. Un altro esempio, magari da Terza Repubblica, di economia assistenzialistica, forse anche un po' parassitaria, che secondo me non è assolutamente un esempio da scuola. Avvocato Talarico, lei presiede l'associazione che gestisce i profughi. Ha sentito cosa ha detto il consigliere Rolfi? È d'accordo? Bisogna dare la possibilità a queste persone che creeranno l'Europa del futuro, perché torto ha ragione, può anche non piacere alla Lega, altri connazionali, ma l'Europa e l'Italia del futuro sarà comunque costituita da queste persone. Cosa pensa del provvedimento della Lombardia? Io qui parlo di estorsione. Penso che sia assolutamente limitativo, che sia incostituzionale dal punto di vista giuridico. L'imprenditore faccia l'imprenditore, il consigliere regionale faccia il consigliere regionale e basta. Ci faccia capire esattamente qual è stata e qual è l'esperienza di Briatico. 350 migranti su un territorio può essere considerato una microeconomia. La struttura alberghiera è storicamente utilizzata per 2 mesi l'anno, oggi invece continuativamente dal giugno del 2014 che funziona, quindi siamo oltre all'anno, con l'indotto che ne segue, quindi dal personale che lavora nell'albergo, le donne della pulizia, le ditte che devono portare il cambio delle lenzuola, il pane, il mangiare. E quanti soldi arrivano a questi alberghi? 25 euro a persona al giorno, 3 milioni 6 annuali. A ciò si aggiunga che, come sapete tutti, i profughi prendono 2,50 euro al giorno, che sono pochi, ma in soldoni sono ogni profugo 75 euro al mese. Moltiplicate sono circa 30.000 euro che comunque queste persone spendono sul territorio. E quindi mi riferisco a piccoli negozi che funzionano solo d'estate. Per il 2014 e il 2015 sono rimasti aperti perché c'era un'utenza comunque che spendeva, seppure piccole somme, ma spendeva. La convivenza? L'esperimento a oggi è funzionato bene, grazie penso alla popolazione. Consigliere Rolfi, però funziona, mentre voi come Lega dite no all'accoglienza. Noi non diciamo no all'accoglienza, noi diciamo no ad accogliere tutti e non possiamo far passare l'idea che tutti quelli che vogliono vivere meglio possono essere ospitati negli alberghi, nei resort o negli agriturismi d'Italia. Ha sentito l'appello del Papa di questa richiesta di accoglienza, cosa ne pensa? Penso che sia una richiesta legittima che il capo della Chiesa Universale debba fare. Io ricordo anche, a tanti anni fa, un Papa, caro Luitivo, che di fronte allo sterminio nei Balcani teorizzò il concetto anche di un intervento giusto e criticò l'indifferenza degli stati. Beh, credo che forse sia anche il momento di porsi questo tema. Occorre che la politica si ponga il tema della prevenzione degli sbarchi e intervenga là. Lei ha appena citato l'indifferenza secondo Giovanni Paolo II. Le faccio sentire cosa dice Papa Francesco proprio sull'indifferenza. La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli altri. Ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono illusioni del futile, del provvisorio, che porta l'indifferenza verso gli altri. Anzi, porta alla globalizzazione dell'indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Non sono d'accordo, fare tutto del buon fascio non è corretto. L'Italia sta dimostrando in maniera confusa e anche disordinata e produttiva di tensioni, però tutt'altro che indifferenza. Però questo sbarramento è come una punizione, chi ospita i migranti, chi ospita i profughi non avrà soldi dalla regione. Non sono fatti per ospitare i profughi, i migranti, ma i turisti. Gli albergatori non sono assistenti sociali. e neanche educatori, sono un altro lavoro. E guarda che gli albergatori che hanno scelto di aderire ai bandi prefettizi l'hanno fatto per un'unica ragione, i soldi. Ma lei una canonica gliela darebbe? Ma se sono profughi reali, gente che scappa dalla guerra, magari anche cristiani, come ha già fatto il Vaticano, perché no? Bisogna capire chi sono, perché se non sono tali, devono essere rifocillati, salvati e spediti a casa. Da oggi, tutti i venerdì, dopo l'inchiesta di Giovanna Corsetti, Alessandra Fiori ci condurrà nel Vale la Pena del fine settimana. Ma intanto, com'è nato il linguaggio di Camilleri e di Montalbano che ha tanto successo? Ce lo racconta lo stesso Camilleri. Essendo io figlio unico, papà, quando andò in pensione con mamma, comprarono una casa qui a Roma e si trasferirono per stare vicino a me, a mia moglie e alle mie figlie. E un giorno si ammalò, credetti fosse una malattia passeggera. Lo portai al gemello, invece gli diagnosticarono un tumore diffuso e non operabile, non c'era niente da fare, c'era solo da contare i giorni. Così io lasciai perdere qualsiasi lavoro e passai tutte le notti con mio padre, perché c'erano state delle cose da chiarire. Ecco. E così riuscimmo a chiarirle benissimo. E poi una volta papà mi disse, raccontami qualche cosa. Dico, papà, ho in mente un romanzo. E glielo raccontai. E papà mi disse, mi prometti che lo scrivi così come me l'hai raccontato? E così come l'hai raccontato voleva dire con l'italiano e il siciliano mescolato. Esattamente, come usavamo parlare in famiglia. In famiglia usavamo parlare così. Tutti i fatti intimi, affettivi, eccetera, erano in dialetto. Ma quando c'erano situazioni critiche si passava all'italiano. Andrea, te lo dico per l'ultima volta. Ecco, questo quello era preoccupante. È così che è nata la lingua di Camilleri, in fondo. Beh, di Montalbano, in parte, sì. Poi naturalmente sono andato a cercarmi le pezze d'appoggio. Certo. Le ho trovate in Pirandello, in altri, in Capuana, eccetera. Insomma, Buttafuoco ha scritto che ha inventato questa lingua speciale. Ecco, questa lingua speciale però ha la sua radice in questo episodio. Beh, la radice esatta è proprio questo episodio. Questa era solo un'anteprima. Andrea Camilleri è stato come sempre generoso nel raccontare e nel raccontarsi. E il faccia a faccia integrale, fatto in occasione dei suoi 90 anni, andrà in onda lunedì su Mix 24, come sempre alle 9. Intanto Alessandra, questo weekend cosa vale la pena leggere, vedere e ascoltare? Sì Giovanni, intanto partiamo da un film. Ragazze, vostra madre e io divorziamo. La monogamia non è realistica. La monogamia non è realistica. Di nuovo. La monogamia non è realistica. Era una scena di Un disastro di ragazza, il film di Judd Apatow con Amy Schumer in sala in questi giorni, ma noi di questo parleremo tra poco, perché intanto, a proposito di ragazze di oggi ma anche di ieri, è uscito, anzi è stato ripubblicato, un libro che ha 40 anni e che sorprende proprio per la sua attualità. Delle ragazze non si sa niente, di Natalia Aspesi. Ecco, buongiorno Natalia Aspesi. Buongiorno. Lei nel libro descrive una vasta tipologia femminile, ci sono le mamme che hanno fatto della maternità una ragione di vita, le coniugate che hanno fatto del matrimonio o del mancato matrimonio ragione di vita o di fallimento a seconda, e poi descrive le sorellastre. Chi sono le sorellastre? Beh, le sorellastre sono, forse ci sono ancora dopo 40 anni, dopo secoli, sono le donne che considerano le altre donne non sorelle ma rivali. Senta, lei comunque delle donne e anche delle relazioni sentimentali sa moltissimo. Risponda alla domanda con cui abbiamo aperto, ovvero la monogamia oggi è realistica? No, io penso che fino a quando il matrimonio è stato considerato una trappola per le donne che dovevano fare i figli e servire il marito, il matrimonio ha funzionato. Adesso le donne hanno conquistato una loro libertà, una loro autonomia, una loro sapienza, ed è inutile continuare a pensare che per tutta la vita ci si può amare, si può essere devoti. Questo non è possibile né fisicamente né, diciamo, intellettualmente. Ma secondo la sua esperienza, oggi sono più le donne a inseguire gli uomini o gli uomini a inseguire le donne? Ma io ho l'impressione che gli uomini abbiano un po' paura delle donne. Per cui per le donne è ancora molto difficile immaginare di vivere senza un uomo, che è comunque sempre non solo vabbè, un amore, un amante, una persona con cui vivere insieme, stare bene insieme, ma è anche proprio una conferma che nella vita ce l'hai fatta. È strano questo, perché l'amore non ha a che fare con le vittorie. Eppure per le donne ancora avere accanto un uomo è una forma di potenza. Senta, lei una volta ha detto: se un uomo si dichiara femminista non c'è tempo da perdere, sulle mutande e via. Sì. Che vuol dire? Voglio dire che l'uomo resta un uomo e l'essere femminista, cioè capire esattamente il punto di vista delle donne è quasi impossibile. Ed è un modo che l'uomo ha di servirsi, dire sono femminista, per poi farne di tutti i colori. Perché oggi rileggere questo libro? Ma penso che possa, prima di tutto, divertire le ragazze. Gli serve per capire molto quanto hanno guadagnato e quanto devono stare attento a non perdere. E poi per le donne più mature che hanno vissuto quegli anni, sorridere con un po' di nostalgia a ciò che hanno conquistato o che forse hanno anche perduto. Sono solo una ragazza moderna che fa quello che vuole. Ti ho mentito, Amy. Sei sveglia, ma non certo un genio. Sei belloccia, ma non sei uno schianto. Sei accessibile. Grazie. Oh mio Dio, mi sta chiamando. Perché chiama? Avete già fatto sesso? Sono Amy, ti è partita la chiamata? No, ho fatto il numero con le mie dita. Che dice? Che dice? Shh, l'ha chiamata apposta. Attacca, è evidente che è malato, per forza. Un disastro di ragazza, una fotografia molto contemporanea delle ragazze, appunto, in sala in questi giorni. Io sono Gioia. Riley. Non è un fagottino di gioia? Era incredibile. Io sono tristezza. Oh, ciao. Posso solo... voglio rimediare. Ma in questo momento al cinema c'è anche un altro film che sta avendo un grandissimo successo ed è un film imperdibile per i bambini, ma forse non solo. Naturalmente sto parlando di Inside Out e qui c'è Pietrangelo Buttafuoco che mi dicono l'abbia visto in sala circondato da bambini. Pietrangelo, raccontaci com'è questo film. Tanto ha un titolo complicato per le mie cognizioni, essendo io proprio ragazzo di paese, mi sono ritrovato a vedere un film sperando che fosse la prosecuzione di un'educazione sentimentale, cioè... I sogni sono desideri. E questi sogni, fatti desideri, potevano ripetere un canovaccio perfino epicureo, di piaceri più che di volontà. Invece dentro quel film o fuori quel film ho capito che invece di uno ce n'erano due, uno per i bambini e un altro forse per chi vorrebbe ancora essere bambino, non è così? Sì, volendo sì, raccontami, potrebbe essermi sfuggito qualcosa. Non vorrei essermi persa la parte per adulti e aver capito solo quella per bambini. Tu l'hai visto con tua figlia, immagino? Io l'ho visto con mia figlia, e sì. Lei ha colto tutto? Ha colto quasi tutto, sì, quasi tutto, lei ha 9 anni. Ha colto anche un'assenza? Quale assenza? Tu l'hai colta l'assenza? È questo che mi preoccupa. Ecco, non c'era il sacro. Avete notato? Di solito nei grandi film di Walt Disney, comunque a un certo punto, la principessa si avventurava lungo scalinate che non erano quelle della fuga dal castello, ma si avviava in processione in chiesa per sposarsi con tanto di sacerdote e poi qualunque fatina era trasfigurazione di un'immagine che rimandava al sacro. Lì invece mi è sembrato di entrare dentro la monadologia di Leibniz. Era una monade quella scena, non è così? Forse Gioia è il sacro, è il nuovo sacro. È Gioia che cede il passo alla disfatta dell'inconscio? Potrebbe anche darsi. Potrebbe anche darsi. E allora, comunque, con Leibniz, un'interpretazione del cartone animato, calza a pennello perché tutto è gioco. Ma a questo punto non posso più parlare io, ci vuole Giulio Giorello, l'unico che ha saputo fare di Topolino una filosofia. Mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù. Ma adesso parliamo di musica e torno in compagnia di Franco Schipani. Ciao Alessandra! Ciao Franco, ma sento i Pink Floyd in sottofondo, Franco. Perché? Perché mi metti Pink Floyd? Ah, li conosci i Pink Floyd? Sì, perché sono 40 anni che è uscito Wish You Were Here. Vorremmo tanto che tu fossi qui. Questo è un disco dedicato a Syd Barrett, membro fondatore del gruppo, che poi l'ho dovuto lasciare perché, insomma, il suo cervello è stato devastato dalle droghe psichedeliche e un po', ecco, diciamo, sì, è persa. Alessandra, di questo capolavoro sono sicuro che ormai esistono delle versioni super digitalizzate, però io vi consiglio un'altra cosa. Cosa? C'è un mercatino delle pulci vicino a casa tua? Pulci non so, mercatino sì. Allora vai, perché sono sicuro che su uno di questi banchetti dove c'è un hippie degli anni 60 con i capelli lunghi e gli stivali a punta, c'è questo tesoro. Sicuramente troverai un Wish You Were Here in vinile, quello con i graffi. Portatevelo a casa, adottate un vinile. Adottate un vinile, dice Franco Schipani. Adottate Wish You Were Here. Portatelo a casa e fatelo riposare, perché consideratelo un guerriero che ha fatto tante, tante battaglie ed è pieno di graffi. Allora, trovatelo, perché ne vale veramente la pena. Non soltanto, vale anche la pena di ascoltare la storia dei Pink Floyd a 40 anni di distanza da Wish You Were Here. Ce la racconta Giovanni Minoli. Restate in ascolto.